Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. C'è anche chi studia seriamente lo Yeti, lo sapevate? Anche di questo parleremo questa sera. Buonasera a tutti e a tutte. Ascoltiamo allora i titoli di questa puntata. C'è un comportamento del nostro corpo, tanto misterioso quanto efficace, che potrebbe essere utilizzato nella cura delle nostre patologie. E per ora non possiamo dirvi di più. A fine agosto, la truffa dello Yeti scoperto in Georgia. Noi abbiamo intervistato un ricercatore che lo studia seriamente. Ma l'uomo è un animale razionale oppure no? Se ne è discusso a Torino in un convegno e l'opinione è che siamo molto meno razionali di quanto pensiamo. Staminalia, ovvero tutto il mondo di polemiche e interpretazioni errate che ruota intorno alle applicazioni delle cellule staminali, è il titolo di un libro appena uscito. 1300 chilometri percorsi di allenamento fatti da 14 voli e poi uno molto lungo che è appena terminato, 15 chilometri ogni volo. Beh, chi è che ha fatto tutto questo? Sono 11 ibis, quindi 11 grandi uccelli, insieme a un deltaplano ultra leggero, e il tutto è anche costituito da un team 11 ibis e 15 persone. Bene, questi sono i dati, gli ingredienti di questa notizia molto bella di un'impresa coordinata dal WWF. Abbiamo già visto altre volte nel tempo questo tipo di eventi, questo tipo di, come possiamo dire, di migrazioni organizzate di uccelli. Anche questa volta è funzionata bene. Che cosa, come avviene la cosa? Praticamente c'è un team di ricercatori che con un ultraleggero abitua degli ibis a considerare l'ultraleggero, eppure loro che ci sono sopra, uno di loro, insomma un altro ibis magari un po' più grande. Questo cosa significa? Significa riuscire a rieducare degli uccelli che hanno difficoltà a svolgere, a mettere in atto le migrazioni alle quali sono abituati. Bene, gli insegnano a rifarle, a entrare nuovamente in questo clima assolutamente importante, a questo comportamento assolutamente importante che è quello del migrare. E poi la migrazione è avvenuta, sono partiti da Gorizia il 7 di settembre e questa settimana sono arrivati all'oasi di Orbetello, che è un'oasi del WWF, e dove lì staranno appunto tutta la stagione invernale. Poi torneranno indietro sempre seguendo l'ultraleggero, il deltaplano. Adesso vi parlo di altro. Vi è capitato di entrare in qualche sito internet e fare qualche operazione come acquistare o iscrivervi o che altro? Vi è capitato di vedervi apparire una pagina nella quale vi si chiede di leggere delle strane parole, tutte storte, magari segnate da una riga con lettere un po' appiccicate? Questa cosa vi sarà senz'altro capitata. Bisogna leggere queste lettere e poi scriverle dentro una casella. È una forma di sicurezza. Come funziona? Semplice, funziona perché solo degli umani possono interpretare correttamente questi scarabocchi. Non è facile farlo, anzi in alcuni casi non si capisce proprio niente. Il sito internet vi consente di chiamare degli altri scarabocchi che forse vi sembrano più chiari. A me per esempio qualche volta è capitato di farne arrivare anche 4 o 5 prima di riuscire a capire che cosa diavolo fossero quelle parole. Il dato importante è che non sia possibile a delle macchine, ovvero dei computer, riconoscere quelle parole. Se fosse possibile, allora alcuni astuti percorritori della rete potrebbero mandare in giro delle macchine che interrogano dei database, superando lo sbarramento appunto delle parole distorte. E così, con un lavoro fatto in automatico, che dei malintenzionati internauti possono ricavare informazioni di valore. Se ci si deve mettere a farlo a mano, insomma sito per sito, il gioco non vale la candela. Succede ora che qualcuno abbia detto questa cosa, cioè abbia fatto questa considerazione: ci sono un sacco di libri vecchi e antichi con parole scritte male che, se dobbiamo digitalizzare, non ce la faremo mai. Sistemi di cattura via computer delle parole scritte sono, è vero, sempre più efficienti, questi scanner, no? Ma con un testo del 500, con quelle mirabolanti ricette mediche per esempio di Paracelso, che magari si è anche fatto il testo, l'alluvione di Firenze, lo scanner digitale impazzisce e non porta a casa niente. A un gruppo di ricerca della Carnegie Mellon University negli Stati Uniti è venuta una grande idea. Hanno detto: fotografiamo un sacco di queste parole di vecchi libri, tutte massacrate dal tempo, e diamole ai siti che devono produrre le parole storte riconoscibili solo dagli umani. Questi appunto, gli umani le riconoscono, le scrivono nella finestrella, a quel punto si hanno delle accoppiate perfette, cioè vecchia parola di vecchio libro con scritto digitale che la traduce. Se questa coppia la inseriamo nella memoria di uno scanner, ecco che abbiamo una macchina che è addestrata a riconoscere vecchi manoscritti. Mi pare che vi sia un indubbio risultato sul piano della diffusione della cultura. Ho però la sensazione che si riapra una falla grossa nella sicurezza dei database. Quindi le parole non basteranno più, probabilmente si potrebbe passare al sonoro e finiremo per dover riconoscere. Ecco, per esempio. Questo qui è il pezzo Saracino di Renato Carosone, vecchio pezzo napoletano, eseguito, quindi corrotto, da un extracomunitario senegalese. Vedrete, i siti ci proporranno questo per riconoscere che sono degli umani che immettono i dati. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete pronti? Perché adesso vi tocca il nostro gioco, il quiz. Allora, siete sulla superficie terrestre. La forza di gravità sviluppata dalla massa della Terra cosa fa? Vi tira giù. Adesso pensate di andare sotto, in una cavernetta, diciamo 30 km vanno bene, sottoterra. Domanda, pesate di più o di meno o uguale? Allora, se pensate di pesare di più, ci scriverete più. Uguale, uguale, meno, meno. Come scriverete? Con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro in premio questa settimana è Staminaglia di Armando Massarenti, e Armando Massarenti sarà qui con noi fra poco. In collaborazione con IBS.it. Ciao Chiara. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Allora, senti, noi abbiamo già qui un nostro ospite, però direi che se introduciamo, non so se sei d'accordo, se introduciamo il tema perdiamo un pezzo della comunicazione, del valore della comunicazione. D'accordo, allora non introduciamo il tema e non introduciamo neanche il professore. Possiamo dire che si chiama professor Benedetti e rimaniamo così. Ecco, e che cosa fa nella vita di specifico? Come lo diciamo ricerca? Tra lo poco. Diciamo. Benedetti, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, un nostro collega di una rivista inglese, New Scientist, è arrivato lì da voi e voi l'avete subito sottoposto a un particolare esperimento. Ci può dire che cosa gli avete fatto? Dunque, il giornalista è venuto nel nostro laboratorio e noi gli abbiamo indotto un dolore sperimentale, cioè un dolore non naturale, ma indotto tramite delle piccole stimolazioni elettriche. Abbiamo associato lo stimolo elettrico dolorifico con una luce rossa proiettata su uno schermo di un computer e uno stimolo elettrico invece non dolorifico associato con una luce diversa, una luce verde, sempre sullo schermo del computer. Quindi noi abbiamo in pratica allenato con luce verde, stimolo non dolorifico, luce rossa, stimolo dolorifico, il nostro ospite, e per un certo numero di volte, perché è durato più o meno 10 minuti, 15 minuti. Sì. Alla fine di questa fase di allenamento abbiamo presentato la luce verde, questa volta però abbinata con lo stimolo dolorifico, e abbiamo visto in pratica, come si vede spesso in queste situazioni sperimentali, che se anche lo stimolo era dolorifico, il nostro ospite, il giornalista, lo sentiva come non dolorifico. In pratica aveva imparato ad abbinare la luce verde con uno stimolo dolorifico, quindi tutti gli stimoli dolorifici che venivano abbinati da quel momento in poi con una luce verde venivano percepiti come non dolorifici. Vabbè, l'avete ingannato, però ha funzionato. Però ha funzionato perfettamente. L'abbiamo ingannato ed ha funzionato perfettamente, come dicevo, succede sempre in queste situazioni, che è la situazione sperimentare per evocare questi effetti. Ecco, questo è l'effetto, quindi adesso possiamo dirlo. Professore, lo dica lei. Beh, questo si chiama effetto placebo. Effetto placebo io ve l'ho descritto in una situazione sperimentale con la luce verde. Voi immaginatevi di sostituire una luce verde con la vista di una siringa invece. Invece che far vedere una luce verde si fa vedere una siringa. Forse funziona ancora di più. O si fa vedere una compressa di un determinato colore. Il soggetto impara ad associare la siringa o una compressa di un determinato dolore con un effetto di riduzione del dolore, quindi in pratica si riproduce l'effetto nella condizione clinica di quello che ho descritto prima nella condizione sperimentale. Ecco, allora professore, adesso la possiamo presentare. Lei è Fabrizio Benedetti, che è ordinario di fisiologia presso l'Università di Torino. E fate ricerca sull'effetto placebo, che credo poi il nostro pubblico e noi tutti conosciamo molto di più quando si parla di medicine che dovrebbero contenere dei principi attivi, mentre invece si fanno degli esperimenti, hanno dentro solo acqua, ma producono un buon effetto. L'effetto giusto. Quello che le chiediamo però, ma questo effetto placebo, per esempio nel caso di medicine, non so, addirittura degli antibiotici, scatta sempre regolarmente? Cioè una medicina può essere efficace per tutti, l'effetto placebo è altrettanto efficace per tutti oppure risente molto delle soggettività, delle storie del paziente? Risente molto, ha detto giustamente, risente molto della soggettività del paziente e della storia del paziente. Per dirla in termini semplici possiamo dire che l'effetto placebo fondamentalmente è un fenomeno di apprendimento in cui si apprende, in cui si viene condizionati. Posso descrivervi proprio in pochi secondi lo stesso esperimento che ho detto prima nell'ambito clinico. Se una pillola di aspirina, per esempio, è bianca e tonda, all'interno c'è un farmaco che fa passare il mal di testa. Se il paziente prende la pillola di aspirina bianca e tonda e il mal di testa passa tutte le volte che lo prende, da quel momento in poi ogni pillola bianca e tonda, anche se all'interno c'è dello zucchero, sarà in grado di far ridurre il mal di testa. Quindi vede che l'associazione con la luce verde e rossa prima della condizione sperimentale è simile. Quindi c'è una soggettività e la storia del paziente è importantissima, cioè deve in genere essere stato esposto a delle terapie efficaci. Se la terapia efficace viene sostituita a un certo momento con un placebo, cioè con qualcosa di inerte che non ha effetti terapeutici, può avere lo stesso effetto della terapia che ha assunto i giorni o i mesi precedenti. Ecco, uno degli ingredienti fondamentali in questo tipo di cure è la segretezza per quel che riguarda ovviamente il paziente e spesso anche per il ricercatore o il dottore che esegue la cura, giusto? Certamente, la segretezza e quindi l'inganno in un certo senso, cioè il paziente deve credere che all'interno della compressa o dell'iniezione c'è un potente farmaco con azione terapeutica. Ecco, ma senta, allora ci stiamo ponendo questo problema dal punto di vista applicativo, un po' divertente e però anche sostanziale. È vero che poter non dare delle medicine che comunque in qualche modo possono sempre appesantire, diciamo, il funzionamento del corpo sarebbe buona, però qui dovremmo immaginarci delle case farmaceutiche nelle quali solo l'amministratore delegato sa che è solo acqua, tutti gli altri no, e si fa pure la pubblicità della medicina e questa funziona. Certamente sì, è una situazione un po' paradossale ed è il problema. Nel migliore dei mondi possibili, ecco. È il problema fondamentale dell'etica del placebo, cioè come applicarlo in ambito clinico. Anche qua vi faccio un altro esempio molto molto semplice. Non è tanto la casa farmaceutica che deve somministrare l'inganno, lo può fare, in genere viene fatto rutinariamente, lo può fare il medico stesso. E immaginatevi una situazione del genere: se io do morfina, do un farmaco antidolorifico il lunedì, poi lo ridò di nuovo il martedì, lo ridò di nuovo il mercoledì e il giovedì lo sostituisco invece con dell'acqua fresca, però il paziente non lo sa. Se questo protocollo viene prolungato per settimane o per mesi, addirittura si può ridurre l'assunzione di morfina drasticamente. Quindi forse è proprio in ambito ospedaliero per patologie e situazioni pesanti che lì si potrebbe avere un'interessante applicazione. Esattamente, esattamente, anche perché una casa farmaceutica altrimenti dovrebbe produrre un blister di compresse in cui, non so, ci sono un 50% di compresse di zucchero e il 50% invece di compresse vere, e il paziente non sa quale sta prendendo. Lei ha parlato di effetto placebo per quel che riguarda la parte farmacologica, però abbiamo letto in redazione che esistono casi anche di effetto placebo chirurgico addirittura. Cioè, il paziente viene aperto ma non viene toccato. Sì, beh, noi abbiamo sempre parlato, quando si parla di effetto placebo si tende a parlare di farmaco finto, però questo vale per qualsiasi trattamento medico che faccia credere al paziente che si sta effettuando una terapia. Esiste anche la chirurgia placebo, certamente, che pone dei problemi etici enormi, molto più grossi anche del placebo farmacologico, perché significa, come ha detto lei giustamente, significa far finta di fare la chirurgia, quindi fare effettivamente l'anestesia, aprire effettivamente per esempio l'addome, inserire degli strumenti chirurgici veramente, però non effettuare l'operazione. Ma a quel punto cosa vorrebbe dire? Che c'è per esempio la regressione di un tumore? No, regressione di un tumore non è mai stata dimostrata, però ci può essere un miglioramento sintomatologico. Per esempio è stata fatta la chirurgia placebo, è stata fatta nella malattia di Parkinson, in cui invece che trapiantare delle cellule fetali vere, si faceva il buco nel cranio e si trapiantavano delle cellule finte, oppure non si trapiantava niente. È un problema etico enorme, se ne sta discutendo tantissimo, però è bene che gli ascoltatori sappiano che la chirurgia placebo è utilizzata tuttora, ovviamente il paziente sa che può capitare nel gruppo che riceverà. Il paziente deve comunque essere informato. Il paziente deve comunque essere informato che potrebbe. Certo che sì. Il paziente sa che per il 50% potrà ricevere la chirurgia finta oppure la chirurgia vera. Ok. Sì, capisco i problemi etici a cui lei fa riferimento. Bene, grazie, si potrebbe andare avanti molto e approfondiremo questa cosa, è uno scenario effettivamente molto strano e complesso. Grazie Benedetti e buon lavoro. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Get the hell out of here! Nobody is home! Leave me alone! Wait. Sentite, questa voce terrorizzata accompagna un video nel quale appare un terribile mostro, uno Yeti che cerca di entrare in un rifugio. Sta sfondando la porta, ma sentite. What is he doing? He's looking for something. Oh, oh shit! It finally came! Ecco, sentite, la voce dell'uomo terrorizzato che è dentro il rifugio dice: lo Yeti sta cercando di entrare, dannazione, sta cercando qualcosa, dannazione. In realtà lui dice shit, dannazione, ha trovato le chiavi che erano evidentemente fuori dal rifugio. Insomma, anche in questo caso, se andate su YouTube trovate tutte le cose più folli sullo Yeti o Bigfoot o che altro nome. Mi sembra che non ci creda nessuno, che tutti ci ridano sopra, però ascoltate Paolo Arebusco che parte da una notizia di poche settimane fa. C'è stata una notizia che ha creato molto scalpore qui negli Stati Uniti. Due uomini hanno annunciato di avere trovato il corpo di un Bigfoot in Georgia. C'è stata una conferenza stampa con grandissime aspettative perché si sperava finalmente di poter analizzare il corpo e il DNA di questo misterioso e leggendario animale. In realtà l'intera vicenda si è conclusa con un costume di carnevale ripieno di parte di animali vari e i due finti cacciatori ricercati per frode. Ora, il Bigfoot, Piedone, Sasquatch, come lo vogliamo chiamare, esiste o è solo una leggenda? Abbiamo qui come nostro ospite oggi Jeff Meldrum, professore di anatomia e antropologia presso l'Università dell'Idaho. Buonasera Jeff. Sì, buonasera. Jeff Meldrum è esperto di locomozione e morfologia del piede delle scimmie, scimpanzé e primati in generale ed è anche autore di un libro che in italiano potremmo tradurre Piedone tra leggenda e scienza. Innanzitutto, che cosa sarebbe un piedone, un Bigfoot? La mia ipotesi è che il Bigfoot sia una specie di scimmione non identificato, la cui esistenza non è verificata. Sarebbe un animale simile a un gorilla o a uno scimpanzé, che però vive nelle foreste del continente nordamericano. Quindi il Bigfoot vivrebbe negli Stati Uniti d'America, ma c'è un altro animale leggendario, lo Yeti, che dovrebbe vivere sulle alture himalayane. Sono in qualche modo relazionati? Esistono altre possibili specie di scimmie, la cui esistenza non è verificata, che si pensa vivano in diverse parti del mondo. Lo Yeti, lo Yeren cinese. Quest'ultimo in particolare potrebbe essere equivalente a un Bigfoot. Recentemente sono stato in Cina e ho potuto esaminare alcuni elementi che indicano l'esistenza dello Yeren ed erano simili, per esempio, alle impronte del Bigfoot nordamericano. Dunque, ha parlato di alcuni elementi che fanno pensare che i Bigfoot o gli Yeti possano esistere. Quali sono questi elementi? Ci sono vari elementi in favore dell'esistenza del Bigfoot. Impronte, racconti di testimoni, filmati, peli. Dal mio punto di vista, gli elementi più convincenti sono le impronte. Nel mio laboratorio ho più di 200 gessi di impronte, molti estremamente interessanti, che indicano l'anatomia di un grande primate. Si tratta di impronte diverse da quelle umane e che sembrano essersi evolute per adattarsi al difficile terreno montuoso in cui si pensa che i Bigfoot vivano. Tutto questo suggerisce che qualcosa esiste, che qualche animale lasci queste impronte, altrimenti inesplicabili. Lei è un esperto di queste impronte. Quali sono le caratteristiche che le distinguono? Non sono semplicemente dei piedi umani ingranditi, ma hanno delle caratteristiche molto diverse. Il piede umano è caratterizzato dall'arcata, con un'ampia curvatura, e dall'alluce differenziato. Le impronte del Bigfoot indicano un piede molto più piatto e con una maggiore flessibilità nella parte centrale. Questa caratteristica si può vedere in scimpanzé, orangutan e simili. Quindi il Bigfoot avrebbe, in poche parole, i piedi piatti e la parte intermedia del piede più flessibile. E in realtà è riconosciuto dalla comunità scientifica che queste impronte non appartengono a dei primati noti. Esatto, queste impronte non sono equivalenti a nessuna impronta di primati noti. Tra l'altro l'impronta mostra la mancanza di un'alluce divergente, a differenza dello scimpanzé che ha i piedi simili a mani, più prensili. Il nome dell'impronta, che si riferisce appunto alla traccia, non all'animale che la lascia, è stato un passo importante. Ho scritto un articolo in proposito, che è stato valutato e accettato. Abbiamo chiamato questa impronta Anthropoides ameriborealis, che si traduce semplicemente piede della scimmia nordamericana. Quindi Jeff Meldrum non è solo a non escludere l'esistenza del Bigfoot. Ricordiamo tra gli altri la primatologa inglese Jane Goodall, che è famosa per il suo lavoro sui scimpanzé. Se volessimo trovare un po' l'analogo marino dei Bigfoot, potremmo pensare al calamaro gigante, che è presente nelle storie e leggende di varie culture in tutto il mondo, ma le prove dell'esistenza risalgono solo alla fine del XIX secolo. Ora, è facile pensare a un calamaro gigante che si nasconde nelle profondità dell'oceano, ma dove si nasconderebbero questi Bigfoot negli Stati Uniti? E quanti sarebbero? Sì, è spesso difficile per la gente pensare a una specie di scimmia gigante che scorrazza viva nelle foreste degli Stati Uniti. E soprattutto non sarebbe un solo esemplare, ma una popolazione intera tale da assicurarne la riproduzione. In realtà molte persone non conoscono l'estensione di terreno non sviluppato e selvaggio, l'estensione di montagne e foreste che potrebbero ospitare questa specie. Si tratterebbe certamente di un animale raro. Volendo fare una stima, penso che tra nord-ovest degli Stati Uniti e Canada ci potrebbe essere meno di un migliaio di individui. Allora, vediamo che ci sono alcuni elementi a favore, ma nessuna prova completa che i Bigfoot effettivamente esistano. Esatto. Per avere una prova bisognerebbe avere un corpo, o almeno una parte dell'animale. Siamo razionali, no? Così ci definiamo rispetto ad altri animali, ma sarà vero? A Torino si è messa in dubbio questa tesi, non in tutta la città, eh. C'è stato un convegno, ve ne parla Barbara Gallavotti. Ci piace come esseri umani, e anche da tempo immemorabile, definirci animali razionali. Ma è veramente così? In realtà i più recenti studi di neuroscienze fanno vacillare questa certezza, e persino nei campi dove abbiamo sempre pensato che fosse il freddo calcolo a farla da padrone, ad esempio l'economia. Di tutto questo se ne è discusso a Torino il 26 settembre durante il convegno Cervello, Cultura e Comportamento Sociale, organizzato in occasione dei 20 anni della Fondazione Rosselli. Ne parliamo con Pier Giorgio Strata dell'Università di Torino e direttore della Fondazione Ebri Rita Levi Montalcini. Pier Giorgio Strata, in particolare a Torino, ha raccontato del comportamento sociale nei primati e nell'uomo. Buonasera. Buonasera. Le chiedo subito, l'uomo è un animale razionale? È un animale razionale per definizione, perché il mondo delle emozioni si è sviluppato già negli animali anche relativamente bassi e poi nell'uomo è comparso questo pezzetto di corteccia cerebrale localizzata nel lobo frontale che ci ha conferito questa razionalità, per cui noi siamo anche un po' illusi che essendo la razionalità superiore all'emozione, con la razionalità possiamo dominare qualunque cosa. In realtà gli studi recentissimi dimostrano molto chiaramente che quasi tutte le nostre azioni sono dominate dalle emozioni e quindi il nostro margine di libertà razionale è molto limitato. E in effetti lei ha fatto un esempio molto interessante che riguarda un vecchio dilemma etico. Allora mi aiuti a ricostruire la storia. Si tratta di un vagone impazzito che corre su un binario e ha 5 persone a bordo. Sì. Allora sono destinate a morte certa a meno di non premere un pulsante e deviare il vagone su un binario tranquillo, dove però sta lavorando un operaio che perderebbe la vita, è così? Sì, è così. E se io tutti gli anni ai miei studenti chiedo se ritengono razionale, giusto, eticamente accettabile schiacciare quel pulsante per salvare la vita di 5 persone sacrificando quel povero operaio che si trova sul binario, e l'80-85%, riportato anche dalla letteratura mondiale, dice che è giusto fare così. In realtà se il quesito viene posto in maniera diversa e si dice che invece di fermare il vagoncino impazzito premendo un bottone io do la spinta a una persona che mi sta vicino gettandola sul binario per fermare il treno, il conto razionale è sempre di salvare 5 e sacrificarne uno, però in questo caso il 90% delle persone rispondono che non è moralmente accettabile. Ora, questo è un vecchio dilemma noto da tempi immemorabili. La cosa nuova che recentemente è stato visto che nel momento in cui all'individuo viene posta una domanda di questo tipo, si attiva un'area del cervello che è l'area del disagio, dell'angustia, della sofferenza. Quindi l'idea di dover dare la spinta a una persona, a un nostro simile, ci dà un senso di ripugnanza e di disagio che ci impedisce di compiere il gesto. Mentre invece premere un pulsante è più asettico. È più asettico, certo, allora in quel caso lì, con queste macchine della risonanza magnetica funzionale, si rivelano che è solo la corteccia razionale che entra in funzione, mentre invece quando nel secondo dilemma, oltre che la corteccia razionale, si accende anche la corteccia delle emozioni. Questi esperimenti sono il tipo di esperimento che farebbe pensare che le nostre norme etiche, quelle più profonde, siano in realtà dettate da comportamenti emotivi che si sarebbero evoluti in tempi antichissimi per salvaguardare il gruppo, ce l'hanno un po' tutti gli animali sociali. Certamente, noi abbiamo questi schemi mentali che si sono inseriti nel nostro cervello e fanno funzionare il nostro cervello in una maniera in cui le emozioni possono essere positive o negative, ma si cerca sempre di andare verso qualcosa che ci garantisce la sopravvivenza, ci garantisce il cibo, ci garantisce la riproduzione e così via. Ma a questo punto allora come si spiegano i comportamenti aggressivi o comunque antisociali? Certo, si spiegano perché questi schemi sono una cosa, come parola astratta, non sono materia. Come è astratta la geometria di una ruota, che non è materia, però la geometria della ruota guida le molecole della ruota, così come questi schemi mentali guidano le nostre molecole a fare questo piuttosto che quest'altro. Però il nostro cervello è molto plastico ed è molto influenzabile dall'ambiente, per cui è chiaro che vivere in un ambiente piuttosto che in un altro altera le molecole del nostro cervello, le cambia e quindi ci fa comportare in maniera anomala. Un kamikaze che da bambino viene addestrato con certi concetti, che cambia le sue regole etiche, cambia anche le sue emozioni. Le emozioni possono essere dominate con la psicoterapia, con l'ambiente in cui viviamo, con i nostri rapporti sociali. Quindi queste sono anomalie che si verificano grazie all'ambiente. Grazie Pier Giorgio Strata, buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Staminalia, le cellule etiche, i nemici della ricerca. Già da come ho pronunciato queste parole avrete capito che sto per parlarvi di un libro. L'autore è qui con me questa sera, Armando Massarenti. Buonasera Massarenti. Buonasera. Anzi, buonasera Armando, siamo colleghi. Massarenti, filosofo, ma anche giornalista, curatore delle pagine di Scienze e Filosofia qui al Sole 24 Ore. Armando, questo libro, lo dico io perché non lo puoi dire tu, è un'azzeccata miscela di inchiesta giornalistica ma anche di riflessione filosofica. Staminalia rimanda ovviamente alle cellule staminali, quell'alias ha un po' di mirabilia, sa un po' di circo, che però in questo caso, ahimè, non è un circo che ci diverte, è un circo che ha creato e sta creando grossi problemi. Il tuo libro cerca di fare il punto su un insieme di cose che si stanno dicendo, su un dibattito che ormai dura da parecchio tempo e che è sostanzialmente distorto, e tu ci vuoi dire, supportato poi con parecchi elementi, ci vuoi dire fermiamo le bocce perché dobbiamo discutere in altro modo di queste grandi possibilità che le cellule staminali possono dare attraverso ricerche per la soluzione di parecchie malattie, di parecchi problemi di salute. Però insomma, se continuiamo in questa direzione i guai sono grossi. Mi pare questo un po' il senso del libro. Sì, sì, diciamo che il problema del circo, come l'hai chiamato tu, è quello di un circolo mediatico, perché proprio dal punto di vista del modo in cui sono state date le notizie che si può partire. Però quello in realtà ha a che fare anche con tutto un modo di fare ricerca e anche dei rapporti che la ricerca, in questo caso più che in altri casi, ha con il mondo esterno, con l'ideologia, con la società, con le giuste istanze peraltro della democrazia. Poi c'è tutto un capitolo finale appunto sui valori della democrazia e confrontati con quelli della ricerca. Credo di averlo fatto anche in modo abbastanza originale, cioè spiegare che i valori, quando si discute di valori, bisogna stare attenti a non fissarsi solo su alcuni, no? Bisogna vedere nel complesso tutta una serie di questioni che riguardano non solo certi valori che sembrano legati a situazioni nuovissime, come per esempio la ricerca sulle staminali embrionali, no? Quindi su tutta la famosa questione dell'embrione, se è una persona o non è una persona, ma come se si ipostatizza una certa posizione su questo, poi si perde di vista tutto il resto, sì, che molto spesso finisce per essere molto più importante, e i danni che si possono fare su altre questioni possono essere molto più gravi. Tu dici che appunto questo dibattito distorto produce dei riflessi anche sulla ricerca scientifica e su come i scienziati si pronunciano in merito a questa ricerca. Qui ci sono dei documenti abbastanza d'effetto, devo dire, che insomma, per esempio, quando si parla di risultati ottenuti da queste prime ricerche nei staminali, direi che qui tu dimostri nero su bianco che in realtà questi risultati non ci sono, ci vuole più ricerca, sarebbe bene smetterla di dividersi in assassini e invece fautori di una mistica sulla vita, bisogna fare un salto in avanti. Ecco, diciamo, non è che non ci siano in assoluto, però vorrei rendere l'idea che si tratta di una ricerca la più promettente in campo medico che si possa immaginare oggi, quella che sicuramente produrrà la rivoluzione medica del XXI secolo, ma che nello stesso tempo è ancora agli inizi. E quindi se chiunque parli con un biologo gli dirà questo, gli dirà guarda, noi stiamo cercando soprattutto a livello di ricerca pura, mentre la comunicazione è troppo spesso è concentrata appunto sulle cure che ci sono in alcuni settori, sono tracce, esatto, ci sono due o tre settori in cui è già abbastanza sviluppata, ma siamo ben lontani da quelle 78 malattie che verrebbero già curate dalle staminali adulte rispetto allo zero delle staminali embrionali. Ed è questa la cosa più eclatante che è avvenuta, no, negli ultimi anni dal punto di vista della comunicazione. Cioè, a partire da uno pseudo problema etico, almeno così io lo definisco, e lì do tutte le dimostrazioni filosofiche del caso, del perché si è insistito inutilmente un po' subdolamente su questo, cioè il problema della personalità dell'embrione, e si può dimostrare abbastanza facilmente che fa un po' acqua, insomma, da tutte le parti, però lo si è preso come l'unico problema etico. Fissandosi su quello, si sono appunto demonizzate, si è dato degli assassini, dei criminali a chi faceva ricerca sulle staminali embrionali, nello stesso tempo si è sviluppata tutta una propaganda che però è molto più dannosa di questa, nel senso che è una propaganda che inganna crudelmente i pazienti. Nel senso che se io continuo a dire che le staminali adulte, e poi invece non è vero, già curano una serie di malattie, si possono già fare una serie di trapianti, in alcuni casi è anche vero in realtà, 2 o 3 però, e non 78 come si dice nella propaganda. Ora, questo falsa completamente chiaramente il dibattito, ma ha anche altre ripercussioni, cioè il libro rende conto anche del modo in cui i finanziamenti sono stati dati alla luce di questa falsa impostazione, di questa impostazione perlomeno molto discutibile. Si sono create commissioni in Italia, tutte basate sull'idea di una terza via, che sarebbe la via etica appunto, ma proprio in nome dell'etica si sono fatte delle cose, si sono trasgredite regole fondamentali della ricerca, del finanziamento della ricerca, che producendo situazioni che in nessun paese al mondo si sono mai prodotte. Tipo che una commissione composta da ricercatori e a cui era stato affidato il compito di assegnare i fondi di ricerca hanno finto per assegnare a se stessi questi fondi, violando quella che è la prima regola internazionale fondamentale. Certo. L'NIH dice che anche solo se c'è un'apparenza di conflitto di interessi in una situazione del genere i fondi non vanno assegnati a quel ricercatore. Ecco, qui si è fatto, dicendo peraltro di rispettare le regole internazionali, si è fatto invece scempio appunto di quelle regole in una maniera, tant'è che oltretutto quando questo scandalo è stato denunciato è scomparso addirittura il sito dove si rendeva conto di questi passaggi, quindi ora come ora nel libro è ricostruito, ma in realtà non c'è più traccia, non c'è più nessuna trasparenza di questa vicenda. Ci sono state anche delle interpellanze di parlamentari poi, e quindi quello qualcosa in fondo è rimasto, ma poi alla fine insomma questi signori sono sempre riusciti a farla franca. Ora, adesso senza volersi accanire su di loro, però cerchiamo di creare, il libro vuole essere un contributo per creare un clima più pacato e dove si analizzano i problemi in maniera seria, dove si rende conto di quali sono i veri risultati della ricerca e quelle che sono invece lotte anche intestine all'interno di questo mondo così variegato. Però una cosa bisogna dire, che c'è un accordo totale tra i ricercatori sul fatto che questa distinzione tra cellule staminali adulte e cellule staminali embrionali è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nessuno biologo sosterrà mai che bisogna ricercare in una direzione e non nell'altra. C'è un passaggio del tuo libro nel quale proponi con un'immagine molto efficace un modo per sentire, userei proprio questo verbo, sentire in modo diverso come stanno le cose. L'hai detto anche prima, non dividiamoci fra assassini e fondamentalisti, cerchiamo di capire che c'è bisogno di un altro sguardo. Pensate, leggo nel tuo libro, pensate che in un ospedale scoppi un incendio e voi dobbiate decidere, perché l'emergenza vi porta a questo, se salvare un bambino di un anno lì ricoverato o una provetta nella quale c'è un aggregato embrionale al quarto giorno. Che cosa fate? Ecco, questo per dire che siamo istintivamente portati a una certa immagine della vita e quindi ragioniamo, tu dici, con calma, senza banalizzare. Grazie Armando Massarenti, ricordo il titolo, Staminalia, edizioni Guanda. Grazie, buon lavoro. Grazie. Siamo alla soluzione del quiz, ci eravamo lasciati sulla superficie della Terra, anzi no, un po' dentro, circa 30 chilometri, e ci siamo domandati se in una caverna di questo genere pesiamo di più, di meno o uguale. Bene, la risposta è, disegnate una sfera, no? Questa è la Terra, disegnate un cerchio. Se siete sulla superficie avete tutta la massa sotto e quindi siete tirati da questa totalità. Se scendete verso il centro avrete sopra della terra e anche sotto, ma quella sopra vi attira verso l'alto e sotto ce n'è meno che vi tira giù. Insomma, se immaginate di raggiungere il centro della terra, a quel punto avete tanta terra sopra, tanta terra sotto e infatti lì dovremmo essere galleggianti. Insomma, la risposta giusta è che più andiamo verso il centro, meno pesiamo. Tutto quello che per noi c'era da dire ve l'abbiamo raccontato. Buona serata a tutti, alla prossima settimana. Andiamo ora a sentire come vanno le cose sulle nostre strade, il traffico. Breve pausa, ora riprendiamo con lo Yeti. E adesso andiamo a sentire come vanno le cose sulle nostre strade.